Fra Diodat. Fra Diodat de Toulouse, guardian, ansi, definidur di suculot, a malastante il pes del fabrian e de cinque bras in röda de tripot, el stava tut i noc, suspesi in lari, pariciur, in sul fa d'un lampedari, cioè medud intend che stava su minga tacà a quai asa o a quai rampum, ma in estes bandunà lude per lui come sarav i gem facul savun. Miracul che il sarav grosso in camia, ma che indifrà l'è una minciunaria. Ora, ora, ora, una bella sira d'onestà, cantan devotament fra Diodat e il suo vesper in cor cui oltre fra, e il se vist avulsas tutti in d'un trat e andà su, su, bel, bel, con un facin mustus, come schisciasse un busechin. E su, quan le squas lì che il tuca il suffit cun ti brash, el sta lì un bot, el fa una girivolta, e pe l'imbuca un bravo finestron cun sinagot, mola i brash, sbassa il cu, stersa un po' il cu, e fort, fera di bal, chi ha vu n'ha vu. Fera i frati cintropa la serena per veder il vul de sua reverenza, ma per quant curen rive malapena a veder gran poc più di una carsenza. De fat, chi di peduls come son me e chi conte il cu greve anscusa in sci. Passa l'ora del cup d'in che e duman, passa una settimana, passa un mes, meneman le chilan e il guardian e il seguit ancamò a stagio di spes. Resteni fra ogni bot cui io sperari lo che minciun più sede l'ordinari, perché infin per quant fussen persuas che il sodio date il fudesse sant de bon, nonostante pareva che il suo cas non fu desminga quel d'un ascensione, ascensione, ascensione, ascensione. Oh, cat, diseven, nancal fus Enoch, Elia, o la Madonna, quel marzoc. Marcanage, cosa al fade surprendent de quadagnas la fin de San Francesc, che utel ganavu de lui il convent. Se nugheri cercò, sì, stava in fresc. Sì, l'han passà che in morx quas tutti vid. Se stava lui, ureven bev pulid. Basta, basta. Se vedrà, se vedrà, se vedrà, se vedrà, se vedrà, se vedrà, se vedrà. Quan peu han vedu che il special leva un'opera de mat, han fa un olter guardiam più buturù e più segrev al dupi de Diodat. Ammis di bon ferà dai finestron e se il ver sguran calù le bon patron. Però a gloria del santo fundador e il padre general la fa un decret che destu vul nu sen duvesque scur sotta pena descomunega ed interdet. E che leva se a di quanta Diodat che le passa alla patria di Beat. Delia cen du desagn, sentis tu cas, e reste lì destuxesi cristian, intant che i fra scenand in santa pas, nu pensaven che al mond ghe fus un can. Senten, in vers la porta del convent, un malarbetus campanellament. Cura il fra purtinè mesa tastun, bestemian la presa e quel che sona, e dopo d'ave vista i becce e del spiun che leva un fra, ol pareva la patona. Benedicite, el dis Rassa de mus, chope i fase, de fatan catabui. Pax mobis, mobis, mobis, mobis. Respond quel, e lì el se invia. Ma la pena che il derv al refettori, pian pian pian ferma, cosa fa'l? L'olter el cria, e lui senza fag olter responsori, e slunga il pas, de meut che il portinè, per stavolta, e il pedaga al nas de dre. Vessi mai imbattù in quai ustaria, a falà lus dopo vesta pisà, e andà in mesa tutt'oltra compagnia, cantant conti cal son mes de la sa. Ben, fecunt pressa poc, che per adès è il cas del refertori sia l'istès. Resten i frade ges, come incantà, avedes li denans vun del suo croce, tutta filà per spur che spaventà, che il gira intorno mesa spana deuc, e resten tant de ges, che pienten lì fin de bev e de mangià, che le tu di. E il guardian, credendel il diavol, che il vures fac passà una mala sera, gatone sola me in pe del tavol, e lì con un courage de mila lira, come il fus, San Domine che in persona, trince già un bel crusun con la corona. In nom de Dio tremendi cristian, parla! E dis, chi te set? Famingal surd! Per quelli lui risponde, son te il guardian, ma sui ami, me senti tan balurd che se non fus che se va chi in scia rent, credarev squas dove falà il convent. Dai, dai, sbragen ciutuc, dai che le umat, ciapelli gel denans, che il daga fera. Alto là, lui repia, son fra diodat, non ves lunghe fra becchi be fera. Perché quel Dio che m'ha fa sgurà e il vedrà del franc nuovo di fra, nuovo di fra, nuovo di fra, nuovo di fra, nuovo di fra, nuovo di fra, nuovo di fra. Per fortuna, il guardian, fra Gianmaria, di 93 fra de quel convent, leva l'une che fu sta in libreria. E per fortuna, ghe venu in la mente, d'ave leggi in non su qual occasion d'un vul de fra diodat scritt su un cartun. E tirandese il me in la memoria, ella interroga tai del fat leggi. E lui el ghe scritta lì tutta l'istoria, dalla qual se capis che avent credu d'esse sta in estes mesura a fa la grassa, el ghe va sta cen du desagn e passa. Già tu ci fra ingenuc, pesche ne impressa, a domandac perdun d'avec fa un sfris. Lui el ghe perdona, el scena, el se confessa, el dorma, el mur. El torna in paradis. E i fra in memoria in fan l'anniversari, cun dopitans de più dell'ordinari. Se vorrì mo savè el perché, per com, c'en du desagn gimpars una mesura, c'apè el prato fiorito, stampà in com, del 1615 da un tal Fiora. Là, al feuille 275, se trova sta cosa frusta, che par sempre neva. Carlo Porta, Milano, 1814. Pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International. BYNC ND.